Letture di Radio 24. La più celebre delle storie natalizie, Il canto di Natale di Charles Dickens, torna nelle librerie nella nuova traduzione di Marisa Sestito. La vigilia di Natale, l'avaro Scrooge riceve la visita dello spettro di Jacob Marley, suo ex socio in affari, morto 7 anni prima, che gli preannuncia l'arrivo di 3 spiriti. Quello dei Natali passati, quello del Natale presente e quello dei Natali che verranno. Il primo spirito lo riporta ai Natali della sua infanzia, quando ancora il desiderio di accumulare ricchezze non si era impossessato di lui, prendendo il sopravvento sugli altri sentimenti. Scrooge inizia a rendersi conto che quello che ha perduto, gli affetti sacrificati per dedicarsi agli affari, sono più importanti di tutto quello che è riuscito a guadagnare. Lo spirito del Natale presente lo porta per un momento al di fuori della sua casa solitaria, per mostrargli il Natale povero ma felice del suo impiegato e quello festoso del nipote, l'unico parente che gli sia rimasto e che, nonostante tutto, gli vuole ancora bene. Ma la lunga notte di Scrooge non è ancora finita. Molto videro e lontano andarono, visitando molte case, ma sempre con un lieto fine. Lo spirito si fermò ai capezzali degli infermi e furono gioiosi, in terre straniere e furono vicini a casa, accanto a uomini in difficoltà e furono pazienti in nome di una speranza più grande, accanto alla miseria e fu ricca, all'ospizio, in ospedale e in prigione, in tutti i rifugi del dolore dove l'uomo, tronfio di una piccola momentanea autorità, non avesse inchiavardato la porta sbarrando la via allo spirito. Egli lasciò la sua benedizione e insegnò a Scrooge i suoi precetti. Fu una lunga notte, seppure si trattò di una sola notte, ma Scrooge ne dubitava, poiché le vacanze di Natale parevano condensate nello spazio temporale che trascorsero insieme. Era strano, inoltre, che mentre Scrooge rimaneva inalterato nell'aspetto esteriore, lo spettro diventava più vecchio, palesemente più vecchio. Scrooge aveva osservato il cambiamento, ma non vi fece cenno finché, dopo una festa di bambini il giorno dell'Epifania, guardando lo spettro mentre si trovavano insieme in uno spazio aperto, notò che i suoi capelli erano grigi. «Sono così brevi le vite degli spiriti?» chiese Scrooge. «La mia vita su questa terra è molto breve», rispose lo spettro. «Termina stanotte». «Stanotte!» gridò Scrooge. «Stanotte a mezzanotte. Ascolta, l'ora si sta avvicinando». Le campane stavano suonando i 11:15 in quel momento. «Perdonami per questa domanda che non avrei diritto di fare», disse Scrooge, fissando l'abito dello spirito. «Ma vedo qualcosa di strano che non ti appartiene, che ti sporge dalla veste. È un piede o un artiglio?» «Per la carne che c'è sopra potrebbe essere anche un artiglio», fu la dolorata risposta dello spirito. «Guarda qui». Dalle pieghe della veste tirò fuori 2 bambini. Miserabili, abietti, paurosi, ripugnanti, miseri. Gli si inginocchiarono ai piedi e gli si aggrapparono ai lembi dell'abito. «Uomo, guarda qui, guarda, guarda qui in basso», esclamò lo spettro. Erano un maschio e una femmina, gialli, smunti, laceri, torvi, rapaci, ma anche prostrati nella loro umiltà. Dove la giovinezza gentile ne avrebbe dovuto modellare i tratti toccandoli con la freschezza dei suoi colori. Una mano avvizzita ed esausta, come quella della vecchiaia, li aveva stretti e schiacciati e strappati a brandelli. Dove avrebbero potuto sedere in trono gli angeli, stavano acquattati i demoni occhieggiando torvi e minacciosi. Attraverso tutti i misteri della splendida creazione, non vi è stadio del mutamento, della degradazione o perversione dell'umanità che contenga mostri anche solo in parte così orribili e spaventosi. Scrooge si ritrasse di scatto, inorridito. Ma dato che gli venivano mostrati in quel modo, cercò di dire che erano bimbi carini, ma le parole si soffocarono l'un l'altra, piuttosto che essere complici di una menzogna di tali proporzioni. «Spirito, sono tuoi». Di più Scrooge non riuscì a dire. «Sono dell'uomo», disse lo spirito abbassando gli occhi su di loro. «Mi stanno avvinghiati perché li difenda dai loro padri. Il maschio è bisogno. La femmina è ignoranza. Guardati da loro e da tutta la loro razza, ma soprattutto da ignoranza, poiché sulla fronte vedo una scritta che è condanna, se non verrà cancellata. Negane l'esistenza, gridò lo spirito, stendendo la mano aperta verso la città. Insulta chi te ne parla. Ammettila solo per i tuoi scopi faziosi e rendila ancora peggiore. E aspetta la fine. Ma non hanno un riparo, una risorsa, gridò Scrooge. Non ci sono le prigioni, disse lo spirito, rivolgendosi a lui per l'ultima volta con le sue stesse parole. Non ci sono gli ospizi. La campana suonò le 12. Scrooge si guardò intorno cercando lo spettro, ma non lo vide. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal Canto di Natale di Charles Dickens, edizione con testo originale a fronte, traduzione di Marisa Sestito, Marsilio Editore, 248 pagine, 15 euro. Letture di Radio 24. La settimana scorsa la rivista Time ha eletto Papa Francesco persona dell'anno 2013, ma prima di loro erano arrivati i giornalisti del mensile Formiche, che nel loro piccolo avevano proclamato Bergoglio formica dell'anno 2013. In uno degli articoli che il mensile dedica al Papa, Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, lo descrive come un uomo che è diventato il simbolo di un intero mondo che vuole uscire da una crisi che non è solo economica, ma anche e soprattutto una crisi di valori. Il Papa venuto dalla fine del mondo, per la grande maggioranza del popolo dei credenti, è davvero la fine del mondo. E basta analizzare i comportamenti e le reazioni della base delle parrocchie, soprattutto dove la frequentazione delle chiese è massiccia. Una vera Pope Star, che in 8 mesi ha ridato al vasto e variegato mondo cattolico un punto di riferimento immediato, di facile fruizione e allo stesso momento di straordinaria potenza. Il gesuita, fattosi francescano, che tende la mano agli ultimi, afferrandoli, e indica la via della misericordia e del perdono, non può non essere il simbolo di un intero mondo che vuole uscire da una crisi non solo economica, ma strutturale dei valori. Ecco perché Francesco è un'autorità morale ormai insostituibile, anche nello scenario politico mondiale, specie dopo i suoi interventi nella crisi siriana. Tanto quanto Ratzinger era apprezzato per la sua mitezza e profondità teologica, che tuttavia la maggioranza non coglieva, tanto Bergoglio è impetuoso, dilagante, capace di toccare le corde profonde della fede e del comune sentire, visto che il consenso è in crescita esponenziale anche tra i non credenti, dove viene percepito come un vero ponte di dialogo. Dalla sua elezione, avvenuta in un contesto drammatico per la Curia Romana, a conferma che la Chiesa da sempre nella storia, nei momenti più difficili, sa trovare al suo interno delle forze sconosciute all'umana ragione, l'argentino si è dato un'agenda chiara, sia pastorale sia di governo. Erano passati non più di 3 giorni dall'elezione quando parlò di una chiesa povera per i poveri e sta rispettando questo programma, sia nei comportamenti privati sia nei messaggi pubblici. E questo non lo esime anche da critiche formulate da ambienti teologici vicini a settori conservatori della gerarchia che non condividono questo nuovo corso, molto distante da quello del pontificato di Ratzinger, che aveva al centro il rapporto fede-ragione e la lotta al relativismo, un'agenda molto occidentale e attenta ai temi bioetici, tutti temi che non sono più prioritari. Bergoglio in poco tempo ha voluto aprire il cantiere relativo alla famiglia, convocando per il 2014 un sinodo straordinario. Forse non arriveranno delle novità sconvolgenti, ma di certo una nuova via è stata imboccata, nonostante le chiusure preventive che arrivano dalla dottrina della fede. Come Benedetto XVI volle reintrodurre la cosiddetta messa in latino con volontà inclusiva per chi era tagliato fuori dal corpo dei credenti, lo stesso sembra voler fare Francesco, ben conscio di come sia cambiata profondamente la composizione del popolo di Dio, a Occidente come a Oriente. Poi c'è il governo della Santa Sede, punto dolente del precedente pontificato, dilaniato da lotte interne deflagrate in Vatilix. Bergoglio, dalla sua stanzetta a Santa Marta, ha avviato in poco tempo un complesso processo di riforma, nominando il G8 dei cardinali, istituendo una commissione di laici per la riorganizzazione delle finanze pontificie, una commissione di inchiesta e riforma dello IOR, ha varato nuove norme in tema di giustizia e di trasparenza finanziaria e ha nominato il nuovo segretario di Stato, l'abile diplomatico Pietro Parolin, a cui tra l'altro sarà affidato il delicato compito di riportare in cima alle priorità il dialogo con la Cina. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Carlo Marroni, Francesco Popstar, dal numero di dicembre del mensile Formiche. Togliamo ai ragazzi le loro illusioni e le loro fantasie e avremo degli adulti con la testa sulle spalle, ma piatti e squallidi. Così scriveva Dino Buzzati nel Natale del 1951, in un articolo che a 60 anni di distanza risulta ancora di grande attualità. Una radio australiana ha spiegato ai bambini che Babbo Natale, o Santa Claus, come gli anglosassoni lo chiamano, non esiste, che si tratta di un ingenuo trucco e che i relativi regali sono comperati dai genitori di nascosto. Alla notizia, i bambini si sono messi a piangere. Padri e madri si sono indignati. Insomma, c'è stata una tragedia. Perché poi tante storie? Ma la radio australiana ha fatto bene. Non siamo più nel Medioevo. È l'ora di finirla con tutte queste fanfaluche di Babbi Natali, Bambini Gesù, Santa Claus, capaci solo di confondere le teste dei fanciulli. Basta con le superstizioni, le leggende, i miti e simili vecchiumi. Fate crescere i bambini in un'atmosfera limpida, reale, disinfettata, trasparente. Insegnateli a dire pane al pane. Buttate al fuoco tutti i libri delle fiabe che con le streghe, gli orchi, i lupi, i barba blu li terrorizzavano, lasciando nei loro animi teneri e innocenti ombre sinistre che poi non bastava un'intera vita a cancellare. E guardatevi bene dal raccontargli storie di spiriti, fantasmi, apparizioni. I bimbi potrebbero averne un duro shock con ripercussioni incalcolabili nel profondo della loro psiche. Imparino a credere in ciò che possono vedere, che può essere praticamente dimostrato, che appartiene al regno della scienza e basta. Sono mai stati fotografati gli elfi e gli gnomi? O esistono dischi fonografici con discorsi in italiano di grilli, volpi, bisce e così via? E allora perché insistere in queste stupidaggini? Ma sì, seguiamo i consigli della pedagogia moderna. Facciamone dei ragazzi con la testa sulle spalle, senza ridicole illusioni, senza paura del buio. Battericamente puri, raziocinanti, asettici, vitaminici, insensibili all'angoscia della notte. E magari anche educhiamoli a non bere vino, a non fumare, a non mangiare carne, ma soltanto tapioche e insalate. Togliamo loro il soprannaturale, il mistero, il favoloso, la fantasia, prima che ci si affezionino. Procuriamogli così delle sane notti senza sogni, quindi molto più riposanti. Sì, per Dio, facciamone degli abominevoli cretini. Ricaviamone degli uomini piatti e squallidi, desolati come un menù vegetariano, in perfetta regola con la ragione e con la scienza, e perciò orribilmente malinconici. Promuoviamo con la valida guida degli psicologi moderni una generazione di gelidi imbecilli presuntuosi. Ci par già di vederli. Oh, tristezza odiosa di quei ragazzi così seri, capaci di attraversare a mezzanotte e da soli un antico castello abbandonato. Ma che mondo sarà il loro? Non verrà da suicidarsi? Come può essere sopportabile una vita che non sia piena di illusioni e di paure? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Dino Buzzati, Bonifica di Natale, pubblicato il 21 dicembre 1951 sul Corriere d'Informazione e riproposto lo scorso 17 dicembre dal Corriere della Sera. La battaglia per il riconoscimento delle coppie di fatto procede a piccoli passi, su una strada dove l'ostacolo più grande si chiama burocrazia. Dal 2 dicembre, le coppie di fatto hanno uno strumento in più per regolamentare il loro rapporto, il contratto di convivenza da stipulare presso un notaio. Evviva! Un passo avanti nella direzione dei diritti civili. Una grande novità. Peccato che non sia così. Non c'è nulla di nuovo. Le unioni di fatto, non ancora regolate da una legge, possono in qualche maniera essere regolate da una scrittura privata. Il contratto di convivenza che i notai invitano a stipulare a pagamento nei loro studi si può stipulare a casa propria e gratis. Diciamo la verità, non è proprio la cosa più facile di questo mondo. Alcuni comuni, proprio per questo motivo, danno una mano. Sul sito del comune di Milano, per esempio, molto ben nascosto, praticamente introvabile, c'è un vademecum dei diritti dei conviventi molto esaustivo. Ma il link, purtroppo, è vademecum e non aiuta. Resta che i fortunati milanesi che riescono a trovarlo possono fare a meno di andare per questo dal notaio, scaricando il modulo del contratto. Intendiamoci, l'iniziativa dei notai è meritoria, ma il ricorso al loro aiuto non è indispensabile come si potrebbe credere leggendo i loro comunicati. Molto più meritoria sarebbe stata la loro consulenza se fosse stata gratuita. Ma i notai, privati dei proventi del cambio di proprietà delle auto, di qualcosa devono pur vivere, poveretti. E così vince la stramaledetta regola del capitalismo. Abbiamo tanto bisogno di cose che nessuno ci dà, ma ci danno molte cose di cui non abbiamo bisogno. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Claudio Sabelli Fioretti, Link Chiari, Notai Inutili, da Io Donna, del 14 dicembre.